Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti, qui è Gas che vi parla e siamo insieme per un'altra splendida serata. Come è iniziata la vostra settimana? Un buon martedì? Cosa fate il martedì? Io il martedì è il giorno dove non faccio quasi mai niente se non il calcetto settimanale. Calcetto che vuol dire calcetto aziendale in questo periodo, dove spero di riuscire a migliorare il quarto posto dell'anno scorso, dove la squadra si è comprata bene ma abbiamo mancato sul proprio bello. Questa è una squadra molto molto più debole perché ci hanno rubato il portiere, che è quello che ci ha operato davanti, quindi la sfida è impegnativissima e il primo risultato, una sconfitta per 7-3, lo testimonia. Ma vi avevo promesso di parlare d'altro, vi avevo promesso di parlare del Giappone, di dove sono stato ultimamente, e non posso che non parlare del Giappone se non attraverso quello che è la letteratura e la musica giapponese. Quindi vorrei raccontarvi, se l'altra volta vi ho raccontato Tokyo, che è un po', diciamo, più moderna e all'avanguardia, questa volta volevo raccontarvi una cosa un pochino diversa. Volevo raccontarvi la montagna, perché in Giappone ci sono anche tantissime montagne e siamo stati ad Hakone, che è questo posto a 2 ore e mezza circa da Tokyo, dove quello che si potrebbe pensare di andare in un paesino rurale e agricolo, invece tutt'altro, perché e anche lì i giapponesi sono troppo all'avanguardia. Allora hanno fatto un patto con gli svizzeri e hanno portato il Bernina, il trenino Bernina rosso, ad Hakone. Quindi ti fai tutto questo viaggio di 1 ora e mezza bellissimo sulle montagne a guardare il lago, perché c'è il lago Ishi se non mi sbaglio, ed è veramente una gran figata. Eravamo andati lì per un principale motivo che naturalmente abbiamo mancato, ed era quello di vedere il Monte Fuji, il simbolo del Giappone, però il tempo era brutto e non ce l'abbiamo fatta. In ogni caso, la pace che abbiamo trovato in queste montagne, offuscate così dalla pioggia, la calma tipica dei giapponesi, la gentilezza, l'educazione e l'ospitalità, sono state incredibili. Abbiamo mangiato dei ravioli buonissimi, abbiamo visto un museo all'aperto con delle sculture veramente fantastiche di tantissimi artisti, anche europei. Naturalmente c'era lo spazio dedicato a Picasso, gigantesco, ma moltissimi, moltissimi autori, anche molto contemporanei giapponesi. Un'esperienza molto, molto positiva che vi raccomando, se mai passerete da Tokyo, passate 2 ore a Hakone per vedere un po' di pace e di montagna. Scusatemi, ma anche è interessante passare di lì per andare a vedere il Buddha di Daitsubu, che è un Buddha di 11 metri del 1200, che è veramente qualcosa che ti toglie il fiato. Ma io, come dicevo oggi, volevo raccontarvi degli haiku, che sono la forma d'arte principale che hanno scritto questi scrittori giapponesi tra il 1700 e il 1800, e di cui uno dei più noti in tutto il mondo è Issa, che in realtà si chiama Kobayashi Yayato, che nel 1793 cambiò nome, si chiamò Issa. Ha scritto oltre 20.000 haiku, e dopo ve ne leggerò una piccola selezione. L'haiku è un componimento poetico che è nato in Giappone, quindi proprio tipico, tradizionale, nel XVII secolo, ed è composto da 3 versi per 17 complessive more, che non sono delle sillabe, però segue questo schema di 5-7-5, che sono un po' le nostre sillabe. Ogni haiku deve avere come tema una stagione, quindi deve avere anche questo contatto con la natura, e ogni haiku si riparte quindi in 5 momenti della stagione, perché il nuovo anno da loro è considerato una stagione a sé, il giorno forse dove si fanno delle promesse un po' diverse rispetto a tutti gli altri giorni dell'anno. Però partiamo prima con una canzone molto rilassante, molto Japanese, pianista che si chiama Iruma, e forse è una canzone che conoscete perché è diventata anche abbastanza famosa, River Flows in You. Ed eccoci qua, ritorniamo in pista e come vi ho promesso, alcuni haiku di Issa. Mondo di sofferenza, eppure i ciliegi sono in fiore. Luna e fiori, incomprensibile questo mondo. Vola una farfalla, sono anch'io come polvere. Perla di rugiada raccolta dal bambino, subito svanita. Fiori di ciliegio? Da queste parti fiorisce anche l'erba. Montagne remote specchiate negli occhi delle libellule. Ciliegi in fiore sul far della sera. Anche quest'oggi è diventato ieri. O luna del monte, illumina la via al ladro dei fiori. Stanotte anche a te si fa violenza, luna d'autunno. Capodanno, sono felice come un cielo pallido. La mia primavera, suprema felicità, coi fiori di pruno. Non scordare, noi camminiamo sopra l'inferno guardando i fiori. Solitudine, dovunque guardo, vedo violetto. Vento autunnale come pensieri nel cuore di Issa. C'ero soltanto, c'ero, intorno, cadeva la neve. Non ho niente, la pace del cuore, rinfrescante. La prima neve, così passa l'uomo in questo mondo. Il mondo di rugiada è un mondo di rugiada, eppure, ci sono tanti eppure da dire e tanti altri haiku che vi posso leggere, ma questo continueremo a farlo giovedì. Io vi auguro una buona serata, una buona notte, dalle buonanotte di allineamenti, e domani vi lascio a Marco Catania che è tornato tra noi e quindi vi leggerà qualche suo post che potete trovare anche sul suo profilo Facebook, e continuate a supportare Marco Catania. Buona serata a tutti, grazie mille, questo era Gas e queste erano le buonanotti di allineamenti. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.